My father's name was Elijah, and my name is Ragnar Pfizer. Senti lì, senti che situazione, ora spacchi tutto. Senti lì, paio di buono. Ti rimane in mano il cursore lì di mixer. Paio Mad Professor su sì. Questo, King Jammies su questo ti mix. Manca la bottiglia di Jack Daniels. Lunedì 21, ore 21, contro radio. Questo è Ragnar Pfizer, come tutti i lunedì che yo. Si rispettano. 0557399933 è il numero di telefono, info.ragnampaisa@gmail.com la mail, e ragnampaisa.net è il sito di riferimento. Mm-hmm. Potete andare a scaricare questa puntata in podcast da domani tardo pomeriggio a prima serata, nonché tutte le altre belle puntate, le belle cose. Poi ora ci trovate, ve lo sveliamo più tardi, però magari a metà settimana ci trovate anche un'altra roba, la sorpresina. Poi dopo ne parliamo. Nel frattempo lasciamo andare Colossus, che è già pronto con il suo set. Big è arrivato, quindi ci siamo tutti. Yo. Ci sentiamo fra poco. Vai. Olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, ui, ui. olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui, olha o menino, ui, ui, olha o menino, ui, ui, ui, menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui, olha o menino, olha o menino, ui, ui, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. You know what I'm saying? These are guys, the governor coming through. I know you're gonna yo, man, that shit was on this motherfucker tonight, man. These motherfuckers. Man, I heard somebody diss Jesus and shit, man. Alright, let's play Ring Around the Rosie. A pocket full of nosy motherfuckers will die early if they choose to test me. The difference between rip, there's no if, I'm swift. I don't drift from my gift or give faggots to lift. I'm deep dish like apple pie, made by ass Smith. My occupational skills will be sealed with a death kiss. I can't resist if you insist that this, once I'm pissed, no plea bargain, overrule cases. Miss, you be smoke, rotating and burst. Tell your skin's crisp, then I must break you with some ill karate twist. I'm extreme with extremities when it comes to remedies. So many false niggas I bought and sold for a penny. Gimme any dummy to play that crummy. Your rubber head will be stuck in your ass like a gum. Word is born. Hell yeah. I'm coming. Yes, what's going on? Credentials involving instrumental rhymes, restores the cells in the mental, relieves you of the violin that you was used to. A since the parting days up in the juice crew, my style been milked like a bottle of Yoo-Hoo. Was never MC Monkey, see Monkey do. I move through, baby, real natural. Pose for in the Dell when it gets lyrical. Ooh, ooh, like Cool C used to do. I make the kids want to roll like I fool. Shops the mecca, cause the planet's mad diggable. Allow me to pause and hit the mark. Nanu, nanu. Wordplay. Is psychedelic, flow not prehistoric, metamorphic, will work like acid, no hat tricks, a classic, so park that ass like Jurassic, and check the matrix, completion like seven to overshadow the 666, complimenting zigzags, with wisdom like 5% is when doing mathematics, flip scripts like acrobatics, intrinsic in rapping like insulin to diabetics, text is didactic, with nutrients like mucilix, on wax, flex facts like hydraulics when vexed, the catch flicks by Merrimack, or Kodak, I looks beyond the door like 100X. But wordplay. Forum, they do anything, he's hot so they pop. shot in the eyes of the Kremlin. He could see the hands trembling, so he played them. Got up from the table while they talking, man, I'm saying. He really DJ'd them, ill. Some might say he K-slayed them. Hey, куда ты вы? Now they hate him. Он за это поплатится. Like, what does it take to get they rubles stacked? He was a key to the safe, but it was a straight disrespect to the face they can't take. So they wait. Мы с ним разберемся ночью. And they wait, found a perfect opportunity right before the opening. Wood grain floors, paintings on the wall, brand new gallery. Just him and his Doberman. Security was there, but they were watching Keith Olbermann. Didn't hear the silence of the left him slumped over and hunched over and shine till they blind. Go ahead and shine. There is no separation. Bei dieser Wahl kam es nicht nur auf das Aussehen an. Vor den gestrengen Jurymitgliedern mussten die weiblichen Teenager auch eine Reihe von kniffligen Fragen, die Showmaster Klang stellte, beantworten. Jawohl, das ist richtig. Wer von Ihnen jetzt am besten, meine Damen, sagen, wie das Pausenzeichen von drei lautet? Bitte machen Sie es nach. Dum dum dum dum dum dum. Richtig. Senti, che è Brahardi questo. È Brahardi a Maurizio Costanzo Show. Chiaramente stiamo scherzando, Madonna, parte tosti, Lucio, stasera. Mi sciupa il mixer di buono di... di Concho Radio. Di Concho Radio, il mixer di Ingemis. Allora, un po' di serate. Snoccioliamole. Ve le snoccioliamo così. E si parte dal... cioè si parte. Diciamo, sono... fondamentalmente sono due la settimana prossima, per adesso, da segnalarvi. E sono tutte e due il 14 febbraio. Una è alla FLOG, che vede i Gladiators, storico gruppo roots rock reggae di giamaicano, proprio storico della serie, che so proprio datati. Alla FLOG, come dicevamo, chiaramente sarà serata Vibra Night, dancehall con Giaca più special guest. L'altra è al Blume, che si trova nel Lungarno Serristori, che in pratica sarebbe il Lungarno dietro San Niccolò, chiaramente a Firenze stiamo parlando, ed è Feeling Funk, la serata della serie Feeling Funk. Chi c'è? God Bless Computers, Cante e Nick Gonnella. Attenzione, nonché, perché... attenzione, mi stanno dicendo dalla ANSA che mi è arrivata l'ANSA ora. Il compleanno del Brilla. Il compleanno del Brilladelli. Quindi un abbraccio. Tanti auguri. E tanti auguri. Hansoncina anche no. Ma Hansoncina anche no. Qui c'è un calo d'ascolti pesissimo. No, se tu canti, tanti auguri a te. Addirittura. Poi vi possiamo anticipare, anche se stiamo parlando non di questa settimana ma della prossima, quindi poi riaffronteremo il caso, però già da ora segnatevi che il 19, ovvero mercoledì, non questo, quello dopo, Shigeto al Tenax per la serie di serate Under Pop. Shigeto, produttore di Ann Arbor, Detroit, Ghostly Swim, eccetera eccetera eccetera. Comunque, serate Under Pop che fino adesso, secondo me, hanno tenuto una qualità veramente alta. In più, insieme a Shigeto, cioè Shigeto in realtà viene a fare da spalla a chi? A Pizzo, la star della serata del 19, Pizzo. DJ Pizzo in console al Tenax. Quindi, insomma, segnatevi fin da ora. Cioè, le serate di Pizzo iniziano a essere rare. Quindi, da appuntarsi. Se non volete perdervi le poche occasioni da qua in avanti, 19 febbraio al Tenax. Shigeto. È come i Beatles, poi smette di farsi vedere, capito? Shigeto, Pizzo e chiaramente Resident Andrea Mi. Lasciamo andare Biga e noi ci sentiamo tra poco. Now look at you now, big man. But I worry about you. I worry about you all the time. Hanging out on the corner all times of night with the cruel people. Baby, that ain't nothing but trouble. I always taught you that you could have whatever you dream. Well, I want you to hold on to that dream, baby. Hold on to it real tight. Cause the sky's the limit. Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? All right. I'd like to welcome all to the right. stage all the lyrically acclaimed. Woo. I like this young man because when he came out with the phrase, he went from ashy to classic. All right. I like that. All right. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had two pair of leads. Besides that, the pinstripes in the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. While niggas flirt, I'm throwing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? I see you later. Here come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow! Why you punch me in my face? Stay in your place. Play your position. Here come my intuition. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watching and hoes clocking. Here comes respect. This crew's your crew, or they might be next. Look at their man, big man, they never try. So we roll with them, stole with them. I mean loyalty, niggas bought me milks at lunch. The milks with chocolate, the cookies, butter crunch. 88, Oshkosh and blue and white duck, ask the sky is the limit, know that you keep on. Just keep on pressing on. Sky is the limit, and you know that you can keep on. Keep pressing on. Sky is the limit, you know that you keep on. Just keep on. Sky is the limit, you know that you can play what you want, be what you want. Remember punch. Yeah, check me out. Remember punch. Devil squad. Devil squad. I battle y'all from the trust to ghetto stars. Face triple chase to guard a war like Mars. They leave them seen smash on my squad. It's hard. Y'all never seen relish, but always seen jealous of my extreme fellas. Rocking the beam sweaters. The worst are paid with their life. I rock for 40 days and 40 nights. And every verse is tight. Better than before. Rough, rugged, and raw. Chainsaw metaphor to leave your brain sore. This ain't a game. I'll leave you mean. Allowed to explain. I thrive on the pain while robbing your chain. Now I mean, throw him in the fiend. Grab his wallet. Leave a trail blazing like sheep wallet. What's today's knowledge? Hold your heat like the peacemaker. I walk the same streets the police take us. Living on the corner, so we'll speak it out my mouth. Respecting out the money, son, that's all it is about. No doubt, silence and cold, violence and mold. Under control, tell my real niggas really roll. On the low, trying to blow trees. And for no reason, we hit a nigga up for more cheese. Better relate and start to think. I'll be the missing link. I got my hustle on like Larry Flynn. We brave in the heart, playing a part. Amazingly smart, razor sharp. Futuristic rap, state of the art. Chicken and your cats past the stars. Frisson was nasty nars. The watch me turn the Apple into Macintosh. Computer chip, broke emotion flow. Closer to no, hold your toes to low. Business never personal, just a word to know. If you run the streets, come in peace and leave in pieces. Even Jesus was killed by the police. They crucified him, now they can check who's the fire. De vez em quando eu me pego aqui cismando assim, numa dúvida que não tem fim. Solitariamente entro em mim, e é bem então que o poder da criação vem mais. Minha música me satisfaz, toda poderosa e cheia de luz. E é tão bom ver que ela me ilumina e faz minha vida valer. Era, era, era, era, era, era, era, era, era, era, era. Hey, yeah, man, I think they're just trying to break your car. What? Life, type strife. So I'm trying to shine a light, yo. Here we come, here we come. come, here we come, y'all. Most deaf, blessed with the breath of life, so we'll rise and give praises. Turn my face to where the mighty sun raises. My book of rhyme pages, filled with phrases that amaze. I could go on for days. First name Dante, last name Bizet. Build a house of tomorrow with bricks of today. My foundation, rest on the law, cornerstone. Shine a light through the mic to radiate your zone. See the world that we know is about to get finished. I'm watching last days wind down in the final minutes. Got dreams of paradise with my whole fam in it. So I ain't got time to play no crime lieutenant. Do you got time to play the crime lieutenant? The time is the asset, how you gonna spend it? The way you handle yours be well documented. It's the raw authentic, Sandra was sending to make you bump the joint and then beyond city limits. 21st, no time to approach your things timid. My name is Mos Def and this is how I get in it. Did in it, hit in it, hit in it, something tight coming through the pipe. What? You heard the first time. The rhyme is designed to apply throughout space and time. Yeah. You don't believe, lend a ear, you're my man. Huh? Something tight coming on you right. What? You heard the first time. The rhyme is designed to apply. I hold the phone to shine. Yeah. If you can hear, you can hear. If you can hear, you can hear. We in your atmosphere. Shine like black gold. Burn like black coal, make a old timer roll up his sleeves. Now that's cold. Behold, the one and only his blessed. My testimony approach the ceremony, authentic, never phony, Fidel, but never lonely. Keep the campfire close. Watch me rip it on Pacific and Atlantic coast with the antidote. For the poisonous snake lies wet on their lips. Put the hiss on tape. You can't get on straight. This is dead on tape. Accompanied by Sean J with the bid on bait. Put the grid on play, on the head on tray. Hot damn, a Captain Kirk and the Klingon say you can't sit on. You better get on the M-O-T-I-V-A-T-E. Real life ain't no freebie. My C can't be any more time for freaky geeky. I'm moving on up like George and Wheezy. Who said that this was easy? They must have been treetop high. Word. Stand in your ear until I bold face die. We all got to die, right. So all got to try, right. To live life right in sight of most high. To live life right in sight of most high. To live life right in sight of most high. To live life right in the sight of your moment, huh? Something tight coming through the pipe. What? You heard the first time. The rhyme is designed to incline throughout space and time. Yeah. You don't believe in the air, you're my man. Huh? Something tight moving on your right. What? You heard the first time. The rhyme is designed to incline. I hold a phone in the shot. Yeah. If you can hear, you can hear, you're my man. Huh? Something tight coming through the pipe. What? You heard the first time. The rhyme is designed to incline. The pure genuine. Yeah. You don't believe in the air, you're my man, huh? Something tight moving on your right. What? You heard the first time. A rhyme is designed to incline. I hold a phone and shine. Yeah. If you can hard, you can hit. If you can hard, you can hit. Who in your app? If you can hard, you can hit. If you can hard, yeah. la vera via, sinonimo di stare bene, italiani buon gustare del funk, lucchette e catene, bici per la city, esauriti al volante, esauriti i posti macchina per il viandante, colliamo la benza, respiriamo sacco con la giusta busta, verde come il pino marino, secolare, spettacolare già dal mattino, MacGyver è diventato Dexter, dal cutter al serial killer, vado, vedo, cerco di limitare lo spreco, talvolta più cieco, lo sceico che non vede il cielo, il pop can, dove l'hip hop splende, auguriamoci che in questo niente, l'hip hop campa, accendi il night champa, champion dedica una lunga, indica la luna, unica la indica, autoconsumo, lottatore di sumo, trasuda il giusto vibe nello studio, e lo sa. Allora vi ri-ricordo ragnampaisa.net per andare domani a controllare la playlist, sentirvela in streaming, scaricarla eccetera, e per tutto il resto tocca a Duccio, poi dopo vi deve segnalare un po' di robe lui, quindi lo facciamo andare così senza indugio. A dopo. We'll be right back. questi tre beat che ho suonato così un po' fuori dal così, frufru, un po' fuori dal coro, fuori dalla selezione, giusto per sottolinearli, sono fuori direttamente dal beat tape che è uscito la settimana scorsa, Funk numero 1, scritto Funk, F-O-O-N-K, simbolo di numero 01, e lo trovate come AFM, ovvero Always Fresh Motherfuckers, che sarebbero Fede di SM, fuori direttamente da Planet Soap. Chi ci conosce, chi ci già segue da tempo già sa, e Lorenzo. Trovate questa roba in free download su soundcloud.com/alwaysfreshmotherfuckers. Always fresh motherfuckers. E vabbè, comunque non è che ve lo dovete ricordare, perché tanto domani ragnampaisa.net, post della puntata, link, vi linkiamo direttamente dove andarla a scaricare. Se cercate comunque su Google AFM Funk numero 01, vi beccate anche varie recensioni, per esempio Dance Like Shaquille O'Neal, oppure una bella intervista che c'è sul sito di redbull.com, eccetera eccetera. Quindi domani ragnampaisa.net, vi beccate il post e vi andate a scaricare. Quante cose c'è da fare domani, tape, eh? Che è una bomba, secondo me è veramente veramente bello. E io vado a continuare con prego, la prego, prego, continui pure. Shadow straight arrow, I can't before the grave a brave son who gave his life to save a slogan that hovers between the headstone and her eyes, for they penetrate her grieving. A boy and girl, they're talking new words that only they can share in new words. A love so strong it tears their hearts to see through the bleeding hours of morning. There's a soldier here today, but you don't bear steel in any way. She's like a bow seeking a wooden arrow, pointing the way to love. We all know how we can hate just as strong as we could ever love. We can love, we can love. God bless you, God, for sending man and woman, pointing the way to love. We got it. About them. see the white stars flying, low and swaying marshes with the white plumes gleaming and the kettles wishing in the sponges once below, then watch them sail on through the forest. Let the dollar circulate. see you in a lonely place. How can you be so blind? You're still regretting the love you left behind. Oh, darling, I've seen you go through the changes, sitting alone each night. Are you expecting to find the love? But another to admit, we're the worst band in the world, but we don't give up. If Cabo played guitar with Valentino on the drums, then we'd be nothing more than a bunch of Dama bums. So you know. What is the magic that makes one's eyes sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game is Lightworks. What do you call a pair of eyes that sparkle and gleam, light up the skies? The name of the game. How do you show those teasing lips so they dazzle and shine? His heart does flips. The name of the game is Lightworks. Hold on, my people. Ci siamo sentiti un po' di originali lavoro di Dilla. Eh sì, oggi non è diciamo, è più una scusa, perché insomma non è che ho voluto fare la solita cosa che fanno ormai un po' tutti da un po' di anni a questa parte. Comunque, siccome oggi ricorre l'anniversario della morte, della scomparsa di J. Dilla, sono passati 8 anni dalla sua scomparsa e niente, ieri, cioè, ho detto domani che mi suono, cioè proprio non mi veniva nemmeno in mente. Allora mi sono messo a cercare in libreria e ho detto fammi prendere un po' fra i vinili, fammi scorrere un po' tra i vinili e mi guardo, mi tiro fuori i dischi così a caso dai quali appunto J. Dilla ha attinto per le sue produzioni, giusto anche per per ascoltarsi un po' di buona musica. E niente, volevo segnalare per chi non se lo fosse visto o magari ascoltato, visto che dura, è un set di 3 ore e mezzo, però se siete intrippati di UK Garage, di roba, cioè di UK Garage vero, no, non roba che viene rifatta adesso, andate a vedervi o comunque ad ascoltarvi il set che ha fatto DJ Iz per il Boiler Room la settimana scorsa. DJ Iz è, cioè, se vi piace lo UK Garage, è il guru dello UK Garage, iper rispettatissimo da tutti, nonostante sia un DJ che ha militato sempre in grossi club, in grossi ambienti, ha fatto per un sacco le compilation UK Garage Essential per il Ministry of Sound, quindi comunque un DJ che ha suonato anche roba sempre abbastanza mainstream, però un mostro nella tecnica di mixaggio. E appunto, siccome avete la possibilità di vedervi anche il set proprio registrato con la videocamera, vedetevi i lacchezzi che fa in console, suona con i CD e veramente, cioè, c'ha una tecnica di mixaggio spaventosa. Consiglio di vedervi questo e di andarvi a vedere anche quello vecchio che fece, che chiaramente è un po' più corto, non so, sarà un'orietta scarsa di roba, dove però fa un juggling mostruoso, veramente. Bene, noi facciamo andare Tommy, ci sentiamo lunedì prossimo come ogni lunedì. Rimanete comunque con noi fino alle 22:30. Ovviamente, per i prossimi 20 minuti ci sta Tommy a darvi un po' di cose buone. A lunedì prossimo, ciao! non do ninja mo sie te yo te songa mo de tu mo sie te yo te yo kya ge sho mo sie te yo te yo kya chen be pa le kya la mwe ke ye ka le ha men di chen be sa nu men di mu na sa nu men di mu de tu sa nu we kro mo da o non do ninja mo sie te yo te songa mo de tu pa le kya la mwe ke yo ka le ha Okoromba ya non to ninja mo siete yo te songa mo de tu mo siete yo te songa ngare mo le gere kweta ju na golamba so karungeka kienwe riuga anyu to le meka wa anyu enju ya no ariuga zalim. Zalim, zalim, zalim, zalim. Ne olacak benim halim? Zalim, zalim, zalim, zalim. Ne olacak benim halim? Almış ele arsızlık, baştan başa yersizlik. Bilmem neden hırsızlık, bilmem neden hırsızlık. Yapan değil bilen zalim. Zalim, zalim, zalim, zalim. Ne olacak benim halim? Zalim, zalim, zalim, zalim. Ne olacak benim halim? İnsanlar dargınıyım, dertlilerin yorgunuyum. Sanki felek vurgunuyum, sanki felek vurgunuyum. Bu halıma gülen zalim, zalim, zalim, zalim, zalim. Do-go-do-go-do-go.